Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buone nuove dalla ricerca: tra gli italiani diminuiscono infatti i valori del colesterolo totale e anche quelli del cosiddetto colesterolo cattivo, cioè l'LDL. Questo è quanto emerge da un'analisi internazionale i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista britannica Nature. La ricerca, che è stata coordinata dall'Imperial College di Londra, ha visto la partecipazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e il contributo dei dati raccolti dallo studio Moli Sani dell'Istituto Neuromed di Pozzilli. A Obiettivo Salute la professoressa Licia Iacoviello, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione di Neuromed. Questo studio possiamo capire che abbiamo raggiunto un risultato veramente importante. Ridurre i livelli di colesterolo, in particolare di livello di colesterolo cattivo, significa aver migliorato notevolmente il rischio di malattie cardiovascolari, in particolare dell'infarto. Noi sappiamo che dobbiamo cercare di tenere questi livelli di colesterolo al di sotto dei valori di 200 mg per decilitro, e questo lo possiamo fare sia attuando una prevenzione ottimale con gli stili di vita, ma anche ottimizzando le terapie quando sono necessari e gli interventi di sanità quando anche questi si rendono necessari, sia a livello di popolazione che a livello di singoli pazienti. Professoressa Iacoviello, quindi avanti tutta, continuiamo così? Lei ha parlato di prevenzione, ma come possiamo declinarla e che impatto ha la correzione di alcune abitudini quotidiane sui livelli del nostro colesterolo? Mi riferisco all'attività fisica e anche allo stile alimentare. Aderire quanto sempre più è possibile alla dieta mediterranea, in particolare all'utilizzo dell'olio extravergine di oliva, alla scelta della frutta a gusto come le noci, le mandorle, le nocciole, ma anche consumare cibi ricchi di fibre come per esempio i cereali integrali e le verdure o la frutta. Accanto a questa alimentazione dobbiamo sempre praticare un'attività fisica importante, attività fisica che non significa necessariamente andare in palestra, che non sempre è possibile per tutti e non è compatibile con gli impegni della nostra vita quotidiana, ma significa fare delle scelte proprio della nostra vita di tutti i giorni. Per esempio, fare una passeggiata di 30 minuti a passo veloce, ma se non possiamo fare la passeggiata, scegliamo di andare a piedi al lavoro, per esempio, o a fare la spesa, scegliamo di salire o scendere le scale a piedi, ma anche di fare degli hobby che comportino un'attività fisica, come per esempio il giardinaggio. A questo dobbiamo sempre affiancare altri stili di vita corretti, come cercare di mantenere il nostro peso forma. La riduzione del peso corporeo nelle persone in sovrappeso o obese determina una riduzione importante dei livelli di colesterolo. Quindi tutte queste abitudini, se praticate insieme, ci portano ad ottenere i risultati che sono stati descritti dallo studio di cui stiamo parlando. Grazie alla professoressa Iacoviello per essere stata con noi. Io vi aspetto sulle pagine Facebook di Obiettivo Salute per i nostri incontri oggi a tu per tu con il dottor Alberto Braghiroli, esperto di medicina del sonno, le regole, le indicazioni, i suggerimenti per dormire bene. Vi aspetto, una buona giornata da Nicoletta.